rischia grosso il Bologna, compresa una penalizzazione in classifica perché è stato deferito a titolo di responsabilità diretta come società insieme al suo presidente Sergio Porcede e all'amministratore delegato Silvino Marras. A seguito di una segnalazione Covisoc, la commissione di vigilanza e controllo sui bilanci del club, i massimi dirigenti rossoblù sono stati sanzionati per la mancata attestazione agli organi federali competenti dei pagamenti delle ritenute IRPEF relative ad emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2010. In Serie B il procuratore ha deferito anche il presidente dell'Ascoli Benigni per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi EMPALS relativi agli stipendi di aprile, maggio e giugno 2010. Quindi Marco, queste due società rischiano e anzi temo proprio che finirà a quella maniera. Insomma. È grave che appunto ci siano mesi e mesi di arretrati sugli stipendi, sugli ingaggi, e quando parliamo tante volte di fair play finanziario, di necessità di stare attenti ai conti, parliamo poi esattamente di queste situazioni concrete che determinano, certo, fortunatamente anche penalizzazioni sportive, ora al di là delle società che le subiranno, ma è chiaro che soltanto in questo modo si può prendere coscienza del problema che riguarda il calcio italiano in particolare, non solo il calcio italiano, ma evidentemente anche società di Serie A che dal punto di vista finanziario invece dovrebbero essere più solide. Ovviamente.